comunque c'era l'R alta, nel 2002 mi pare che fosse, sì, sì. Nel 2002, no, forse no. E aveva, ma lui era già, avrà avuto 4 anni, penso, 3-4 anni. Ma sai quando si diventa mezzanotte, l'abbiamo portato al canale, nel parcheggio delle Quirci, era tutto bianco, non c'era un'impronta, faceva male anche a passare. Ecco. Avanti, prego. Ciao Roberto. E beh, questo accento continentale, mi c'è anche Salvatore, mi fa il che. Si è dimenticata, comunque ha già promesso che la porta da me, adesso sei con me, non ti preoccupare. Come, Roberto? C'è anche Salvatore, per l'antenna, si è dimenticato di mettersela in macchina. Comunque, in ogni caso, quando la porta ci sentiamo parlare, ti dico avvicinati, l'indomani te la prendi. Una bene veda, ciao Salvatore, buonasera da questa parte, e ciao Gianni Doppio Ru. Ciao Falche, mi hai sentito? Hai capito Salvatore, abbiamo comprato i pernetti, ce li abbiamo anche in cantina, conservati perché non li abbiamo più usati. Ciao, Falche, buonasera, mi hai sentito? Ascolta, se io, tanto io ormai non sto lavorando, se tu vuoi venire domani mattina a prendertela a casa mia, magari cerco di darti qualche indicazione. Già, fa di oggi, no? Sì, sai dove abita Vulcano? Ma è tuo ottava? Sì. No, negativo. Aspetta, facciamo una cosa. Tu sai invece dove è il cutiato lavoro di Roberto? Positivo. Perfetto, allora dai, ci troviamo domani mattina intorno alle 11, va bene? Positivo. Alle 11 ci troviamo sotto lì. Beh, così te la porto e poi magari con una cosa l'altra ma arrivi con il nuovo. Te la porto sotto da Roberto. Tu con me non la piano la più quella lì. Perché adesso quella porta al mezzo dal furgone, adesso non ce l'ho più quel furgone, mi risulta troppo grande, mi risulta adesso, su quel mezzo che devo metterla, vabbè, Gianni, e quindi mi viene una più piccolina, e quella lì ce l'ho ferma, è un peccato, almeno così il parchetto sulla piazza, che io forse il parchetto me la mettere in acuzia capisso, mi lo già. Te l'ho detto anch'io, ma tutti stavano dicendo che prende i fumi, e che piglia ghisce, che piglia razzo, lì voi state vedendo una cosa, ci mette sempre in mezzo la gente, io gli ho detto, devi farti fare una piastra larga, in alluminio, in acciaio, fatta L, una piastra L, le la infili in mezzo, ti fai dei buchi laterali, se hai possibilità di attaccarla al muro, li metti qua contro la sedia e fatto, se non li fai saldare un borsetto che attacchi al tubo, e le fatto io. Via. Dica, c'è anche la Mantova, si piazza la Mantova a quel punto. La Mantova c'è. Se l'ha regalata a Pulino e deve buscare la cosa, la bobina quella grande, la bobina grande, che come si chiama, la data 1, non so che cavolo. Sai che cosa deve fare mettersi una piccolina quando c'ha la possibilità di mettersi la matto? Roberto, ti riprendo io, scusatemi, ma quella matto non va bene, non va per niente bene. Dico motivo, la mantova purtroppo è stata tagliata al seghetto, dove ci sono radiali spezzati dentro, non qua neanche a piazzarlo, ma ben volentieri avrei piazzato quella, ma non fa, ci sono tubi storti, cioè, io ho accettato il regalo, ma va bene così, dai, non fa piazzarla. Ah, ma come l'ho detto, c'è anche a quello mi sembra da segnare, tu sei Antonio? Sì, quella mantova non va bene, non sono dicendo l'altro giorno. Non va bene, quindi niente da fare. Fabio che te l'ha fatto. Via. Salvatore, scusate, ma Salvatore ci sei ancora? Sì, che c'è solo. Domani giochiamo in casa, amici, l'ultima del giorno dell'annata, alle 11 proprio, ma dicendo non lo posso, ti vuoi fare una scappata. Dove giocate? Ah, in casa siete. A meno che Falche invece, ma non lo sa perché troverà il campo, solo invece di trovarci sotto a casa di dove lavori ci siamo trovati al campo. Oh Sabato, invece ti viene bene a te passare all'ippodromo? Allora, dimmi dove ci vogliamo trovare, a me intanto io domani non lavoro, vieni lì, vieni non mi cambia niente. Dimmi dove ci troviamo. Noi ci troviamo all'ippodromo e via Parigi, all'ingresso dell'ippodromo. Bene, allora ci troviamo all'ingresso dell'ippodromo, ok, affermativo. Allora fai così, fai così alle 11, prima non ce la faccio, perché poi scendo a vedermi la partita, la partita di Roberto. Sabato alle 11 all'ingresso di via Parigi per entrare all'ippodromo, io ti aspetto lì. Va bene, dimmi dov'è. Aspettate che voi fate confusione, dilli fa che l'ingresso dell'ippodromo è quello di via Rockefeller il principale, l'altro lui sta parlando con lo portiere, ma a quel punto vi date appuntamento di fronte ai carabinieri, non sbagli e siete più sicuri, perché sabato l'ingresso di dietro mi devi fare, non quello principale. Capito. Fai così allora, che se siamo magari non ci troviamo. Davanti ai carabinieri, alle 11. Sì, allora, di fronte ai carabinieri, va bene. Nel piazzale dei carabinieri ci fermiamo. Noi la prendiamo un po' di sta manca, ma diciamo te, è arrivato qui l'Alem. Ecco, così si può rimanere senza arricciare. E sta manca, ma ce l'hai tu, sai che? Eia, ma te l'ho detto, non va bene, non va bene per niente, non fa montarla, se no non avrebbe fatto quella. Ma cosa che ne hanno tagliato? Gli radiali, se si sono troncati dentro, li passi lui qua, vanno nelle tubi, non è niente di particolare. Il tubo centrale ne hanno tagliato. Ah, vabbè, non è così, non funziona così. Dentro la stelletta, dove ci vanno i radiali, lì ci vanno delle placche in ottone. Se tu passi il trapano, lì elimini le placche di ottone e ci butta via tutto. Vabbè, le volentieri avrei piazzato, non c'erano stati problemi. Poi il tubo l'hanno tagliato, non entra dove ci va il bollone, dove ci va qualcosa nel petrolesimo, non entra nel tubo, capito? È un macello, vabbè, devi venire a vederla, cosa vuoi dire? Per cui di chi non ti devi preoccupare di nulla, perché le puoi fare anche tu il lamierino se proprio ti interessa di smontarle, perché di quella manovra di pianto ne esistono quelle viti sopra e netto così senza niente, per cui quello è importante. A te ne hanno tagliato il tetto dove c'è il piantone di sotto, invece lo vedi, il tubo l'hanno tagliato sicuramente. Il tubo in alluminio sono tagliati robe, sono piegate, è brutta anche da vedere, tutto qua. Ah, se ci hanno tagliato i tubi d'alluminio, no, a quel punto lo lascia perdere, perché poi per trattare il salvo, anche se si può fare lo stesso, ma a questo punto ci devi perdere troppo tempo, lascia perdere, come non detto. Avanti, salvato le riprendita. Ma fatte della mettere nuova questa antenna, caro, ma qui ci come ci si do. Già, no, se si mette la turbo 2001, non è che ci guarda, sono convinto che lo prenderà lo stesso, va bene. Ciao Antonello, prima di tutto, che ho sentito in quel passaggio di poco fa, non fate tempo a salutarti. Ma ecco, a proposito, ma se tu una Mantova la metti senza radiali, che problemi ti può dare? La ricezione basta, la ricezione, perché adesso per la ricezione. Per il resto va bene. Come ti stavo dicendo, sabato, la Mantova va la Turbo 2001, va quanto la Mantova, perché io sotto casa ho lo stesso segnale da certe persone che avevo da casa. Ti smentisco io. Allora, anche se sono tutti e due 5 ottavi, la larghezza, la lunghezza fisica dell'antenna è completamente diversa. Io ho fatto la prova, anche quando giù al mare avevo provato, ma l'avevo salvato, non era la turbo, era un'altra cosa. Qua me l'aveva fatta provare un amico mio. È un'altra cosa, è un altro genere di antenna, non c'ha niente a che vedere con la Mantova. A te ti sembra vicina, come la grande, in vicinanza funziona ottimamente, i segnali sono fortissimi, differenti, ma come ti allontani appena appena, la reazione dell'antenna è completamente diversa. C'entra l'altezza del coso, l'onda non si sviluppa nello stesso modo come si sviluppa sulla Mantova, è tutto totale. Cioè, tu entro, per dire, 2 km di raggio, non noti differenza, ti sposti appena appena in più e completamente il segnale si abbassa completamente. È lo stesso principio della Grand Plane. Poi tra l'altro quel tipo di antenna deve funzionare con una massa efficiente, no? Attaccata alla ringhiera fissata da così, non serve a niente già. Io ho parlato di una placca, non dalla ringhiera, è messa su mezzo, non mi hai capito. Allora io parlo con cognizione di causa perché io viaggio e so che cosa vuol dire. Io da Porto Torres arrivo 9.05, capito? 9.05, si attacca 9.10, 9.15. Quindi l'antenna vuol dire che rende, roba. Gianni, tu a questo punto ti metti la mano, vai a fare il prova e vediamo come arrivi con la mano. Quella me ne sono accorto quando vedevate su al quadrato, cioè c'era gente lì con la pelle più bassa di voi, e più piccolina, arrivavano più forti di voi, insomma era la posizione più alta. Chi compra di radiazione dell'onda elettromagnetica? Ci sono riviste specializzate, libri specializzati. La mano faccia un radiatore completamente diverso da quella della lì, quella antenna accorciata, è un 50 con quella accorciata con delle bobine e cose del genere, per cercare di farla funzionare, di accordarla. Però la lunghezza d'onda è completamente diversa da quella 50, loro hanno lavorato sulla carica, di sotto hanno messo delle bobine per cercare di farla irradiare, sicuramente irradia molto di più di un'antenna di dimensioni più piccole, ma non può competere con la Mantova, già è fisicamente impossibile, la Mantova è 7 metri, 6 metri e 75, è impossibile, cioè non esiste fuori dalla luce. Poi Falca, dammi retta, piazza la sul tetto, poi vediamo la resa. E poi mi dà la resa se mi dici vero è. Ascolta, beh, io so il mio segnale che arriva a certe persone, mi hanno detto arrivi lo stesso segnale che arrivi da casa tua. Cioè, cosa vuol dire? Che con l'antenna lì rende quanto con l'altra, forse di più, perché quella è sul tetto e l'altra è in Gianni, le prove si fanno con l'antenna una a fianco all'altra, no? All'antenna battaglia, una all'antenna sosso, tu prendi due antenne e le metti una a fianco all'altra, tieni affianti nella stessa posizione, loro due fili di cavo della stessa impedenza, lo stesso tipo di cavo, e commutatore l'antenna, e così facciamo la prova. E poi mi deve dare la risposta, no, c'è cioè, la portatore che arriva a 9.10, e di rimane la mano vale qui 9.40, che discorsi non si fanno così le prove già, si fanno posizione ferma, lo stesso punto con due antenne diverse, e di appunto si controllano, si fanno delle no, da me almeno non ho dubito che tu arrivi a 9.10, 9.20, quello che vuoi tu, però in quel punto lì se tu ti metti la mano vai a più forte, perché se no vai a casa di chi è di Massimiliano, tu ti metti lì, ti metti lo stesso apparato di Massimiliano, o da Salvatore, ti metti sotto e facciamo le prove di lì, uscendo con la stessa potenza, cioè con gli stessi baracchini, e vediamo un po' che arriva più forte, Salvatore o tu, e poi ne parliamo. Vabbè, ognuno la pensiamo di suo, comunque. È un'antenna molto valida, dal quadrato come tu mi hai detto non ero mai con quell'antenna lì perché io al quadrato salgo con Pierpaolo sempre, quindi non è possibile che tu mi abbia sentito, è molto molto difficile, magari quando mi senti che sono in macchina mia solitamente è molto difficile, dai, di notte non, la macchina mia non viaggio, quindi non mi hai sentito a me con l'antenna lì. Se mi scegli ti spacco lo smitter. Io non ho detto che non rende, sicuramente è una delle migliori in assoluto, però ti posso dire e provare anche con calcoli matematici, prove eccetera eccetera, non può competere con la mantova è molto più grande già, è un'altra cosa, è come che tu ti prendi il portatile con l'antenino suo e poi ci metti l'antenna o un pezzo di filo esterno, lo stesso pezzo di filo esternamente è diverso, perché è molto più in alto, c'è una lunghezza d'onda diversa, anche se sono, come si chiama, 72-5 ottavi, una è come si chiama, è costituita da una bobina, l'altra invece è costituita da una lunghezza effettiva del coso dello stilo d'antenna, non esiste già, cioè è fuori dalla lucida. E poi la cosa più importante, vicino non ti do niente, perché se ti metti sotto casa mia o sotto casa, ti posso dire, di uno entro un chilometro di raggio, differenza da casa tua quasi che non noti neanche, cioè a me che non ci siano parati che ti ostacolano, parliamo in posizione interna, però quando inizi a allontanarti la musica chiama completamente già, è diversa cosa, è tutta un'altra musica. Questo padre è proporzione, roba è proporzione. A livello, è quasi a livello della mano, perché mi ha dato a me dei risultati, io ce l'ho l'antenna, quindi posso saperlo, roba se permetti, no, c'ho l'antenna, quindi posso saperlo, a me mi ha dato dei risultati molto soddisfacenti, sia fuori facendo di ex, sia con segnali andando fuori, mi hanno sempre sentito, mi possono sentire anche Santiago 3, però mi sento, quella lì è la bellezza dell'antenna, capito, che ti riesce a farti sentire a tutte le parti. Vabbè, comunque, ognuno qui ha i suoi punti di vista. Io a Falchetto gli ho consigliato di mettere una piastra, non gli ho detto di mettere nel terrazzino, tu non hai ascoltato, ho detto di fare una piastra in acciaio. Poi praticamente saldargli un pezzo di di un morsetto, diciamo, per attaccarla al tubo, ecco. E di studiarsela, anche lui mette un morsetto, l'attacca al tubo e va alla grave, di cui l'unico difetto che c'è con l'antenna è che quando si sporca vuole pulita, perché se non ti dà stazionaria. Io le conosco tutte le cose di quell'antenna lì, ce l'ho 5 anni addirittura, roba. Gianni, però si deve andare meglio anche di quella che c'è lui nel balcone, perché quella che c'è lui è un quarto d'onda, sicuramente va molto meglio, sarebbe mettere, vengono quei, quei supporti della Gran Fleet, anche il Fusaro forse ce li ha e non deve fare niente, va e se la piccita sopra, però come va a mettere esternamente così un'antenna del genere, devi stare attento anche ad altre cose, devi avere sempre tutte le azioni atmosferiche, devi pigli un fulmine, ti fonde tutto, non è come la matta, ma che come si chiama, è schermata, c'ha qualcosa sopra, un'antenna sopra, e devi ti scarichi completamente l'energia sull'apparato e ti sciogli tanto bene. La antenna cortocircuitata come la manta, farlo bene. È cortocircuitata. Allora, la manta va isolata, se tu controlli c'hai il piantone isolato dal palo. Tu invece se metti quel discorso là, l'antenna ti sta facendo una piastra, per cui il metallo ti farà trasmettitore di corrente, no? È diverso, è un diverso processo, anche se il cortocircuitato, però è diverso il discorso, sono due tipi di configurazioni di antenna. Quella lì devi fare una base, come stai dicendo tu, la devi attaccare a un palo in ferro, a meno che non ti vuoi un palo in consu, in plastica, in materiali resinosi che non conducono, se no ti arriva completamente no, la scarica del fulmine. Non sarai così sfortunato, mi dirai, però anche se il fulmine è lontano, l'elettricità esiste, l'elettricità statica esiste da tutte le parti già. Io Robè, ti dico la verità che provo attenzione, a me non mi è mai successo nulla, mai fulmini, mai niente, trovate tutte queste cose, boh, strane, io l'ho avute, fulmini ne sono caduti e a casa non li sono mai arrivati, e l'ho avuta, addirittura guarda, c'è mia moglie che te lo posso far dire anche da lì, quando siamo sposati io la prima antenna che ho messo è un'antenna in barra mobile, ho fatto il buco nella ringhiera, nella casa nuova, infatti si è incantata una, me l'ha fatto ricoprire, me l'ha fatta attivare, però l'ho usata per un bel po' di tempo. Vabbè dai, no, se non siamo tratti la parola, già, ci credo quello che mi ha detto, non c'è problema. Facciamo riprendere anche agli altri, avanti un attimino Salvatore, poi facciamo il giro, avanti Salvatore. No, mi fa piacere ascoltare. Comunque, come antenna ha ragione Gianni, è meravigliosa. Forse è la migliore oggi che c'è sulla barra mobile. Ovviamente c'ha i suoi difetti che è un po' pesante e bisogna mettergli questa qualche piastra sotto. Comunque, ho fermato alle 11 davanti ai carabinieri, va bene? Sì, Salvatore, ti ringrazio molto, Salvatore, sei un amico. Ma che? Non ci mancherebbe, intanto ripeto, se no qui così scendo a vedermi per avermi un pezzo alla partita, vabbè, tutto chi siete, vabbè. Mi immagino la pietra, allora stai dicendo, fatti mettiti la camicia gialla così ti vedo da lontano. Camicia gialla, picca e pizza. No, già, guarda, uso l'abito che avevo stamattina quando sono venuto, pantaloni color cappellate e giubbotto nero, poi sono irriconoscibile. Ok. Dimmi Roberto. Come fa la radioporto? Ci scrivi Falchetto e fai vedere quei cartelli quando arrivano i turisti, tipo un cartello Falchetto. Vedo, mi gira, mi dando un'idea. No, facciamo una cosa, io ti dico, io quando arrivo la base dei carabinieri, trovo l'antenna, ci metto una bandiera sopra e sono sventolare, e tu capisci che sono io. Ma che io ho un buon blocco, quello è un po' grigio metallizzato. Però non dalla parte dei carabinieri dove si entra, la parte dei posteggi ci metto lì, mi fermo, o perché? Ehi, Robert, ti aspetto lì, alla parte dove c'è la roba, cuore se registri lì, dai. Cos'hai detto già? Quanto non so se dipende da te, se sento il rumore per un alternata. No, non dipende da me, lo sento quando parla Falchetto, non è roba di alternata. A me non ci sono rumori, io sono sempre con i rumori proprio di sottofondo, eh. Un rumore sta per entrare. C'è uno sotto comunque. Guardi che vuole entrare. Ma qua c'è qualcuno che vuole entrare lì, avanti. Questa è la nave, dico. pericoloso, della Tirrenia che sta partendo. Vabbè. Si deve qualche. Sta uscendo il tipo, anch'io lo sento. Non sarà Mario, lo sento con quel difetto. Boh, può darsi. La tromba della Tirrenia, l'hai compreso. Avanti chi vuole entrare. Beh, 9, Santiago 9. Ma non può essere invece Antonio, mi sembra essere Antonio. Anche a me è pazzo, è quello d'Antonio. Già, cosa dici tu? Stiamo parlando come lui, scusate, non ho capito cosa stavo te chiedendo. Quel rumore sembra quel segnale d'Antonio, un bombolo, no? Tu che l'hai sei più vicino, lo dovresti sentire più forte. Ah, già se ne è un bombolo, lasciamo lì. Il telefono fisso, non dirti che sto facendo un anino per quel lavoro là, perché come stavano ad accompagnare il figlio, ho detto fai una cosa, fai tutta una tirata e accompagni e vai giù da Salvatore, ma c'è sempre stato il telefono fisso. E allora, adesso dopo quello sono entrato, da capo anno c'è il centralino completamente fuso, prima era la linea, adesso c'è il fuso, adesso ho fatto una cosa, ho preso e ho chiamato al telecom, sto rifacendo il abbonamento con un telecom, mi chiama mando a quel paese, vabbè. Guarda, il... Sì, che io, cioè, io non sono con Telecom, io sono con BT, no, Albacom, e la mando a quel paese, questo è il vecchio gestore. E non conviene questi qui, lascia a perdere, non è che non ci abbiano le linee d'oro, tipo molte volte qualcuno ce le ha, ma per certi versi Telecom adesso ci ha aiutato, io sono con Tiscali, però perché stanno bene adesso, ero già all'inizio ero potuto ammolare tutto perché mi avevano rotto le scatole, sono rimasto con loro, dai. Però all'inizio ero con Foniacom che era la più conveniente di tutto, c'erano anche le linee, le centraline, però adesso siamo con Tiscali, sta durando, ci sta facendo delle tariffe ragionevoli e va bene, dai. Ok, avanti. Facciamo il giro, prima l'ultimo arrivato, la tariffa e poi proseguiamo, avanti la tariffa. Ma è il giorno di fermata, Iare. Quanto è arrivata la tariffa? Non ci ho fatto caso, forse comunque. Ah, vagava. Cosa ti stavo dicendo, Roberto? La volta che siamo andati a fare la partita... giocatori contro cantanti, poi c'era contro giornalisti, insomma, in Costa Smeralda. Lì c'era Bettarini, tutti quanti hanno messo la firma, quando hanno chiamato tutti quanti si è allontanato, non ne ha messo autografo. È un guasto, un cazzo presuntuoso, guarda, ci sono campioni e campioni, lui sicuramente sarà un ottimo giocatore, che per me non c'è, sono molto meglio di lui in Italia, è troppo pompato, il discorso suo è che lui è romano, a Roma c'ha una proiezione molto più ampia, diventa nei marchi per qualunque persona, e lui è solo quello, perché ce ne sono giocatori, ma molto più forti di lui, solo che non stanno giocando nella Roma, giocano mai in altre squadre, lasciamo perdere, è un presuntuoso, solo quello, al minimo dolorino, che non lo vede, non sta giocando bene perché c'ha un mal di schiena che gli fa male, non lo, ne pregiudica il gioco, ma mai fatto un giro, che non ha mai fatto vedere nulla, è solo bubù e bu. A me, ma c'erano tutti. Cosa, la moglie? No, non l'ho visto adesso, ti parlo di un 3 anni fa che l'ho visto. Ma l'abbiamo visto due volte. C'era Mister Cone in porta. Poi c'era tutti i Bettarini, di quelli conosciuti. Allora, di quelli che conoscevo io, perché io non è che sia molto sportivo, ma quelli li conosco. C'era praticamente Coso, come si chiama? La moglie di Bettarini, non mi viene il nome adesso, che infatti gli ho fatto anche le fotografie abbracciato, con Simone Aventura, che era bella bronzata, e poi c'erano delle colatrici di Tinto Brass, tu non vedo dove si conosce, quella bionda bella prosa, che le ho fatte filmare, e c'era poi qualche attore, giornalisti conosciuti, poi c'era qualche attore di Coso, di quella telenovela che danno, Cento Vetrine, quello biondo. Insomma ce n'erano di, diciamo, personaggi conosciuti, c'era la moglie di Coso, di Bettarini, la ex moglie che Simone Aventura che faceva da cronista. Non c'è uscito niente già. Poi con Palabarale, mia moglie ci ha fatto la fotografia con Bettarini e io con Palabarale, mi intendiamo bene, con Simone Aventura. Che bruttina mia adesso, è diventata brutta, a me non mi piace prima quando era molto più giovane, adesso è piena di stucco. A me c'è stata in due. Detto che sia bruttita o meno, non mi piace più. È davvero diversa, è molto diversa, è molto migliore il tiro che è davvero, lo sai. Parlavo di tutti, non è bruttina, no, vabbè. Non è il mio tipo, non vedo che sia brutta, però non è il mio tipo, troppo sofisticata, non mi piace a me così, a me facciamo molto più semplici, no? Proprio non ha niente a che vedere per i miei gusti. Io Robè, non ti la frutti nulla, noi della moglie di tutti. Ma no, hai ragione, non manca a me, non mi interessa, comunque, come benetto non è male. Natali, lascia il parere tu che sei, in questa mattina sei esperto. Colleghi, cosa richiedi? Natali. scatola non la sentita, no, manco manco. Cosa ti stavo dicendo? Salvato. Non è il tipo di balletta che a me piace. Ti dirò che c'era questa attrice di Tito Brassi che ti seguiva per fotografare, se ne stava scappando. Addirittura ho fatto, io ho approfittato del fatto, non sono andato davanti, mentre le scappava gli facevo il filmato e tutta la gente appresso. Ecco, già nel caso non si smentisce mai. C'erano i carabinieri a Pressambello, sai, una macchina fotografica, per cortesia, non si possono fare fotografie, va bene. Come ti si girava, trac, scattava. Gianni Corona, voi siete diventati? Papparazzo! Diventatevi. Avete parlato di due, ho detto Gianni Corona. Anche papparazzo è diventato. Sì, papparazzo. Fa rima, cosa? Non sa, no, papparazzo, paonazzo è diventato, la famiglia. Allora, uno di una mi ingravidato, io si vede il cazzo in chi vivo. Mamma mia, Natalino, il super uomo. Grisù. Stavo già per i canali, stavo ascoltando su 17, c'erano questi due camionisti italiani, stavo raccontando certe storie di donne, dice questo amico loro, che dice sarà stato la moglie, c'è anche la moglie ha assato, lui, per cosa, questo ragazzo dice fa il camionista in continente, dice si sta facendo i soldi a certe ganacce, con queste tipe anziane, dice di una certa età, ci ha fatto un giro vizioso, dice ma non è nessuno, mi sta raccontando, dice non è quello su quale, io non ci credo, siccome è collegato, dice mi, ma pensare su internet, detto, vedi questo è quello, dice ti leggi un po' di messaggi, entra nel suo chip, dice, ma su, dice, c'è gente che mi dà 800 euro, 500 euro, 300 euro, così si fa il weekend da questa qui, ma dice gente di una certa età, eppure anche qualcuno qua in Sanera, dice, si sta facendo loro questo tipo. Beh, si fa le vecchiette. Ci fa dei soldi sulla vecchietta, dice che è grandetta, allora, dice si è fatto un nome, questo qua dice zona di Firenze, tutte quelle zone lì, di Luzzetta, le dice a tutti i giorni, dice vieni fatti trovare lì, ma di notte, a qualunque ora lui quando deve vedere in zona, lui va, dice però lo stanno distruggendo, dice se lo vedi adesso, dice tutto distrutto, dice sempre assonnato la mattina, infatti dice, lo stanno consumando. Bravo, fiato di rigotto puro. Non è così facile, devi farti conoscere, presentare, eccetera, eccetera. Dice c'è un altro qua, dice un altro, quello lì però va sempre con questa stessa qua e gli fa dei regalini però, non gli dà sud. Ma che schifo, io ne vedo tutte in una maniera diversa, l'amore, il sesso, mi fanno schifo queste cose robe, ho fatto la battuta però sinceramente, mi sa di squallido, una cosa squallida, io nel senso ci metto in mezzo anche il sentimento, poi ognuno la vede a modo suo. Non è un sentimento, il sesso è sesso, il sentimento è sentimento, sono due cose separate. Quando tu lo fai senza amore, il sesso per me è come farlo con gli animali. Vabbè, diciamo ci sono gusti e cose diverse, ognuno avrà un modo diverso, diciamo non mettiamo il merito, cambiamo l'argomento, se no ci usciamo dalle camere di mezzo, avanti Salvatore. Ma perché non mi capisce, se non mi capisco, problemi c'è. Dammi, guarda, il volume c'è già il cartellino. Non mi si chiama, non mi si punisce la mezzo, Salvatore. Ci vuoi in verticale qua, ho detto una cosa in verticale, diciamoci in verticale. E quanto volevo dire, mica io mi ci devo trovarmi con qualchetto per darmi con l'antenna mia, se ci vuoi far trovare anche tu, c'è un appuntamento babati carabinieri di Natalizio. Quando? Anni 11. Sì, vabbè, così ti do il numero di Capri2 che me l'ha dato, mi ha telefonato e me l'ha dato. E ci mettiamo d'accordo per quella serata là. Sì, ma la settimana prossima sei d'accordo Roberto, ok, chi vuol venire, perché non è che se vuol venire anche Gianni ci fa piacere, se andiamo a mangiare la pizza tutti insieme. Tu di venerdì mi hai detto Roberto. Ma no, questo venerdì, lasciamo anche Gianni vuol venire, Franchetto, chi vuol venire non c'è problema. Guardate, se volete che venga io, poi fate come volete, non c'è problema da parte mia. No, lo facciamola subito, lasciamoci passare un po' di tempo, le feste, dai, non è che andremo domani, no? No, ho detto la settimana prossima, cioè non questo venerdì, al limite possiamo provare il venerdì prossimo. Come consumato che venga bene a tutti, cioè senza impedimenti, dai, non è che dice o bevi e poi magari quell'altro non può venire. Cerchiamo, se andiamo andiamo quasi tutti, dai, chi ci può venire? Sì, ma no, che noi dobbiamo discutere di quella cosa, al limite sono Gianni, capito? Dopo si organizza per tutti. Gente sotto, io non sento qualcuno sotto che sta chiamando, ma non riesco a capire chi sia. Avanti, dico più io, avanti l'amico sottofondo. Ah, cappa, stavo uscendo con la terrazza strana. Da pagava. Ciao Giuseppe, servizio con Vialità in compagnia di Gianni Dottorone sottoscritto e poi Salvatore Maestrale, Roberto Quadrato e Natalino Alfa 1 e via dicendo, dai, vai per chi vuoi. Ma non c'è nessun problema, vai. Non c'è nessun problema, sono cose che succedono a tutti. Scusa, non c'è problema. Avanti di nuovo, Salvatore, vediamo un po' se non si sente la vita. No, negativo, non lo sento. Sentivo che c'era qualcuno che stava parlando, ma non riesco a capire che cosa si dice ogni tanto, il cuore me lo compie. No, continua tu, chi lo sente? Vabbè, tu lo senti, vai tu. Ho capito chi è, lo sento piccolino, come si chiama già? Si chiama Giuseppe, mi ha detto di modulare la sacro cuore ieri, non lo so. Giuseppe, moduli la sacro cuore, vero? Kappa. Vabbè, poi c'è anche Natalino, dai, non lo va bene, Natalino se lo ascolti tu. La rossa Giuseppe Luscio. Giuseppe il camionista, quello che porta il vetro, va. No, ho capito, no, pensavo che era un vecchio scemico lì, Natalino lo conosceva sempre. Quale cosa Luscio, Natalino? E via. Dove peccate, ve ne siete? Archito, avanti. Andrà bene, veda, salutone anche da parte mia. La sento piccino, dai, riprendi. Ehi, Giuseppe dovrà provvedere a mettere l'antenna sul tetto fra poco, vero Giuseppe? Ma che antenna è piazzata? Ma se scendo basso e provvedere sul tetto, di Dio la buona domanda. Non ce l'avevo io sul tetto, gli sparavo di brutto. Ma te la c'è dove? Dove abita Costanzo Kirchi da quella parte lì? Dove abita la Costa? Ho capito, io non l'ascolto però. Se non mette l'antenna sul tetto, dopo quello è mezzo sassetto. Non c'è problema, c'è la sul tetto, Natalino, la piazzata stasera, solo che non riesce a comunicare bene, deve essere che c'è qualche cosa in piede, che piede ha fatto? Ah, prima di tutto, ma parecchio, che alimentatore c'ha? No, devi usare un alimentatore. Un alimentatore che abbia almeno 4-5 ampere, dai. E quanti ampere c'ha? 240 volt. No, aspetta, scusa. Ripetimi tutto, quanti ampere c'ha? 50 watt è tanto già. 50 watt? Insomma. Probabilmente non ce la fa, dai. Probabilmente è l'alimentatore che non ce la fa, ti faccio con l'altra manta a quello, dai. Secondo me è per un... Quante volte sono 3 ampere circa, amici? Ma ci sono gli alimentatori, Robert. C'è scritto per dire 3 ampere e poi te ne danno 2, capito? Non sono, per dire io ho questo da 10 ampere, che è buonissimo. È buonissimo, non cala nulla. 10 ampere ce li dà tutti. Italia elettronica, una cosa del genere, un bel buono. L'ho preso da Fusaro, ma veramente è buono, è come amperometro. No, quello che riprendo io che devo andare a cenare, ok, perfetto, vai, vi saluto tutti, Gianni, Natalino, Roberto, l'amico Giuseppe che purtroppo è che ti sono con me, tanti lo sento, tanti no. Franchetto, qui, ci sentiamo, ci vediamo 11 domani, va bene? Davanti ai carabinieri, chi vuol venire siamo lì, ok, saluti circolari a tutti quanti, io passo in correnti per i motivi di carica, riprendi Roberto e cagliare per gli altri. Veramente è stato buon tutto, dai, anche io sono un po' stanco, ci sentiamo domani, se riesci a venire mi fa piacere, dai. Avanti, mettetevi qualcosa di colorato, così vi riconoscete, Falchetto, e Salvatore, avanti Gianni, anzi prima Falchetto per Salvatore, dai. Ok, dai Salvatore, buona carica, buon tutto e ci vediamo domani, riprendi Gianni per Salvatore. Ciao Salvatore, buona carica, sentiamo, alle prossime, siamo sempre qua, avanti, avanti. Ciao Salvatore, buon carica, il plus. Natali, fate la scappata domani, alle 11. Sì, vediamo un po' là. No, ma io ci sono, ciao a tutti quanti, e di nuovo, correti in finito per me. Via, ciao, ciao Salvatore. Capa, capa. E Antone, va avanti Antone. Via, dimmi. No, non è tanto un fuggi, vedi, sbatti e fuggi, così. Sì, sto mettendo una cosa, sto falsetta. Vediamo se ho messo di segnale, non farà. Ti sento qualcosa. E dici che cosa è? Io faccio curiosi. No, non ti posso dire niente adesso. Se sta questo partito non riparo. La cosa è a posto. Strategia per faccenda. Ehi, aspettatemi. Cava gaffa. Metto se ne guardo da un bozzetto, cos'è la cosa? No, salire su, adesso che ha più un capomiale, non farò male. Ma se la vede fra tutti, è incaginato un fulmine, e va sempre dritti. Ma non è per quello, è per quello con le bagnate, lo fanno scivolare. Poco fa quando c'era quel tipo Giuseppe, infatti, c'è Roberto Quadrato, Giuseppe anche Roberto, qui c'è l'effetto ecco, se non te lo ripetevi, di tutto Roberto si chiama nei CB. Ma io ti spiego perché c'è Marco che stava piangendo, non capivo più un cavo, non capivo perché stava piangendo. E invece perché sta facendo i capricci, gli sta facendo fare i compiti mia moglie e non ne vuole fare, ha detto che si rifà domani, no? Ha detto ti rifici, io dicevo non mangi. Pure segnato nel libro nero, ogni errore qua segno tutto. Quindi a Roberto Quadrato, avanti Roberto Quadrato, e deve essere che c'è una predisposizione per chiamare. Sì, deve essere. Come ha indicato qualcosa comunque se sentite le tettine di roba. Volevo dire, aspetta, c'è ancora con Giuseppe, è andato via. Giuseppe, sì. Gabba, dici qualche cosa, dai. Che cosa hai combinato con questa offerta? Non è possibile che sia così basso. Tu non hai messo massa. Non c'è massa in quel capolino. L'hai provato con la testa per vedere se fungeva? E boh, non so cosa dirti. Non si è staccato qualche filo, mi stai facendo solo con un caldo. Ma la radio, con il osservatore, non c'entra nulla. Stazionario è controllato. Se non controlli quelle... Ciccia, quell'altra lì te l'ho detto, andava fatto il capo di quella misura che ti dicono loro. Era bisogna rivedere il piede come li hai fatti, non lo so. Ti è mai capito tanto di mettere già la carta nel centrale e il coso centrale pure? No. Qualcuno che l'hai mai capitato, deve essere proprio mancato da fare una cosa. Non so cosa dire, perché la radio è troppo bassa, non sta rendendo quella roba, anche come segnale non si fonde. Ma già, era quello che stavo facendo poco fa Santiago Nove, lui è. Aspetta, voglio vedere una cosa. Aspetta, mi accendo la luce, devo controllare una cosa. Giuseppe, sei tu che stavi uscendo poco fa a colpi in antenna, sentivo un rumore di sottofondo fortissimo, tu vedi? Quanto mi sta rispondendo? E tu Giuseppe? Santiago 2. Santiago 2. Cosa Giuseppe? Come Santiago? Ci sei venuti da casa 2? Santiago 2 qua, Roberto, dico cantante, Santiago 2, con farà 9:10 quel rumore. Ah, sì, no, infatti stavo dicendo, quello di prima che ho parlato. Ascolta, fammi sentire l'antenna sul testo. Via. Apriti quel piede e controllatelo intanto, vedi. Ma forse anche quello di sul PL. Merda, fatti male. Stai, non è possibile che sia così basso la sacro cuore. Con una storma 27 che a te non arrivano per 25 qua a casa, da te dopo. Ehi, bisogna vedere come ti è piazzata. Da Madonna, e bisogna vedere come ti è piazzata pure. invece bisogna vedere, gli diamo una mano e così si può far uscire bene, no? Non pensi? Avanti Falcone. Beh, in effetti sì, bisogna dare una mano, se no, no, è giusto anche quello che ha detto già, bisogna dare una mano così si mette a posto, dai. Sì, ma senza vederla l'antenna, come ti ha fatto, come fai a dargli una mano? È quello che voglio dire io. Quello è vero. Positivo anche che il discorso di Altarino. È tutto da vedere già, è inutile che stiamo lì a dargli consigli. Bisogna vedere come ha messo l'antenna, come è stata piazzata. Aspetta una prova, Giuseppe, il segnale 9.10 qua, il segnale 9.10, ma sicuramente è già stazionato quell'antenna, c'è un stazionale sicuramente. Giuseppe, tu sei tu da un colpo, qua sei 9, adesso è 9, poco fa era 2, Santiago 2 poco fa da me. Stavo scendendo poco fa con la portata, adesso sto scendendo con l'antenna esterna. Ha usato il portatile perché ha visto che non stava funzionando bene l'antenna, quella che va sul tetto. È un bel strano comunque questo ruzio, ho già rientro di radiofrequenza, magari non è accordata bene, ho qualcosa del capo in corto, possono essere tante cose. Ma tu parlando stai Giuseppe? Non stai uscendo, lascia perdere, vuole tutta controllata quella roba. Scoppiate. Avanti, Natalia, fate girare. Natalia. Oh, io. Che cosa c'hai? Niente, non c'ho niente. Stanco? Sono stanco e incantato. Anda bene, veda. Devi prenderlo bene. C'è anche Antonello. Vediamo se Antonello è rientrato. C'è rimasto qua, c'è il palchetto, Gianni, Natalino e poi. Per portatile è rientrato l'amico, non so se l'ascolti o me. Sì, vabbè, piccolino in mezzo al QRM. Vabbè, è inutile, se vuoi uscire con le condizioni è meglio lasciar prendere. Scappa di Rogero, andrà bene vera, riprendi Gianni. Vabbè. Bisogna controllare quella stazione, Giuseppe. Bisogna controllare cosa avete fatto, come avete messo l'antenna. Ma non è che tu l'hai messo in corto, no, con l'antenna lì, l'hai messa in corto per caso. E allora c'è da prendere i piedi sono stati fatti male, secondo me. Sono stati fatti male i piedi. Non c'è altra cosa. Ho il capo interrotto sulle piedi, i dito di cose. E anche le stazioni bisogna controllare. E cambiato. No, ci potete comprare uno per controllarlo, oppure te lo prestiamo, non c'è problema. Però per lui ti serve sempre, ti conviene comprartelo una volta per tutte. Perché quello che c'è in macchina lo uso qua, è normale, non quello non crea nessun problema. Io con la macchina la posso usare anche a casa, non c'entra nulla, Natalia non faceva così. E da vedere l'impianto come è stato fatto, ma che ti ha aiutato a me? Prova a controllare i piedi, che magari non abbia lasciato il filo della massa che tocca magari al polo centrale, qualche filetto, sai com'è, no, che questo cavolo di massa se ne va al filo per controllo. Guarda a vedere se qualche filo ti è scappato magari. Ma non è una cosa semplice, se c'è un tester, guarda, c'è l'antenna in corto, quella non lavora in corto, se è in corto il cavo bisogna ripare i piedi, molto ci vuole. Ciao Giuseppe, ciao, ci sentiamo, dai. Al limite si guarda quella cosa con un po' di calma. Ok, saluto a tutti Giuseppe cordialmente e vi auguro un buon continuo in questo. Dai, avanti Roberto. Questo non riprende, Falchetto. Aspetta, facciamo una prova. No, saluto, ci sono sento piccolino, ma non riuscivo a capirlo. Sì, Giuseppe, se avanti tutto, sono male, ci riesco che fai danno. Avanti la tarea. Sì, cazzo. Non si capisce niente, non è più radio. Foggia. Ma qua lì c'è qualche problema, ti sei abbassato di brutto il segnale, radio niente, è solo un fischio, c'è. Maledizione la pioggia. Vabbè, ma fai il contrario, quando piove stazionale non è raggiunta nulla, per il prossimo vieni in mano. Questo lo stesso che è in corso di vendere all'altra parità. Insomma, non stavo facendo l'altro giorno. Sì, lo so, ma non ho avuto tempo di controllarlo. Carino, non so se ancora non si è rientrato e tutti gli amici eventuali in ascolto. Correte la pandemia. Ciao ciao, buon divertimento e fate bei discorsi, dai. Ciao ciao Robby, quindi ti stai all'ascolto e tutti addormenti, così. Wow, che scherzo. Ehi, buonanotte Roberto, dai, tutte alle migliori. Riprendi la tarina. Ciao Robby, sentiamo adesso il buon così. Da Gianni un attalino, riferito a tutti e due, se avete, mandatemi quando avete avuto il tempo il numero di Capri del cellulare, perché mi ha detto che ve lo mandavo a voi perché la carriera aveva smarrito, così se dovesse capitare qualcosa ce l'ho anche io. Va bene? Sì, io ce l'ho, sarà mandato. Vabbè, se vi ricordate mandate il Capri mio numero, lo sapete, mi mandate un messaggino e così ce l'ho anche io. Ok, di nuovo pure la parte mia, ciao ciao a tutti. Ecco. Ci sentiamo, buon lavoro per domani. Domani è una bella fame. aspetta. Ha pensato io, Aspetta, mia. Se lei andava a girarmi di conto di fare quello. Il pacco giura con le due. Scendo giù. Con Befana, con Befana. Ciao, allora da lì, nuovo RT, tutte le migliori. Vai, fate girare questa ruota, mi pare di zombiti oggi. Ah, vero? Ma te che ti conosco un 2001? Ok. Beh, attore. Quando ho detto che ti conosco un 2001, mi sa che oggi mi sono dimenticato la Peroni. Dipende con la balletta, ma non mi sono dimenticato, può essere la fretta. Domani mattina me la porto. Sì, vabbè, domani mattina scendo giù e ti procuro con la base. Poi li mettiamo 4 variali, aspettiamo di mettere con la terra la 50 per pensare la fissa. Gava. Bene, Gianni. Ehi, ma glielo ho detto... Se l'ho detto che può andare in corto, se c'è qualche fulmine dice che se la può fare entrare in casa, non so cosa, io non lo sapevo, ma prima cosa che stesse. E cosa? La 2001 tutto? Sì, per questo studiate le attività di fulmine. Ma quello fatto ma si sa, ma gli hanno fatto quello è successo a quell'altro. Mi ricordi una cosa, a tutte le antenne, di norma, le antenne TV, le antenne satellitari, le antenne palestine, tutte vogliono considerate a norma a massa, con la massa a terra, se no non si possono installare. Invece a me Vittorio mi ha detto di non farlo quello, perché se faccio quello è la volta che l'antenna si avvia davvero il fulmine. No, assolutamente non ci sono norme, te la faccio vedere. E purtroppo è così. Se tu vuoi fare un impianto, vuoi con la massa a terra, però non li puoi fare. Se succede qualche fulmine che ti mette il palazzo, come è successo in pratica ci rimette il tecnico, capite? Quello dell'ascensore, l'ascensorista mi ha detto. Stavo una volta nell'attaccatura una cabina lo stesso e praticamente è sceso un fulmine e ha bruciato la centralina dell'ascensore, l'hanno fatto pagare a lui. Si è messo la cosa per la cabina, si è messo la cabina, quando si è messo il fulmine, sono tranquillo che non l'ho accettato due volte, cabina elettrica, cabina di fondo, cabina ascensore, antenna TV, parabola, ovunque le parte, non vedo dove va. Non ho capito niente, abbiamo fischiato sopra. Io devo entrare di paletta. Mi stavo dicendo che se scende il fulmine, scende lo stesso. Ho parabola, ho antenna TV, quello che è, scende lo stesso. Capito già? Paga. Andava. No problem. Comunque le mattine non vuoi sono così, che faccio vedere il foglio, c'è nuova casa, cosa ha fatto? Le nuove la mattina c'è, tutte le antenne TV, le parabole, le antenne di baracchino, tutte volete collegate con la massa a terra, le palazzo, basta. Io l'ho chiesto a chi se ne intende, mi ha detto non è fare, perché così è la volta che davvero te la piglia il fulmine. Non è assolutamente vero, c'è tutto niente, a me se mi ha fatto sempre antenna di parabole e anche di fungo la massa a terra, non è successo niente. Vabbè, la massa ce l'avrei avuta, ce l'ho in macchina, guarda, se la voglio attaccare all'antenna ci metto poco a attaccare, l'avevo già preparata. Tu guarda che le parabole, guarda le carte della parabola, c'è quella specie di triangolino, c'è un triangolo. Secondo te non sono che c'è un buco con un triangolo, se ci vai bulucino per la massa a terra. Ma è la massa a terra meglio grossa, meno piccolino, non c'è una bella massiccia. Per non è così. Se mi capitano queste chiuse che prendi quel fuoco, te lo faccio vedere. Sì, sei tranquillo. No, ma ci credo, Alice, se lo stai dicendo ci credo. Giuseppe, stai ancora uscendo male? Ci credo, ci credo. Ma se c'è una legge, c'è da che un da dire, non sarebbe la prima volta che non funge. A volte capita, come è successo a Costa, a quell'altro, che hanno sei anni, non c'è bisogno di parenti, e hanno portato un ralo. E poi se può essere un fumo, in una mazza va per dire, se la mazza va in questo circuitato a mazza, che va direttamente a Calzano, eppure quello che ha trovato l'ha trovato, appena a Calzano, figurati tu. Quello di Luna Rossa mi pare, perché non l'ho più vista l'antenna. C'è quello di Luna Rossa, quello di tutto per fumo, quando c'è l'escena, non è di qua. Ma basta stare a quello che è, quello che capita, capita. Non è stato di inserire più dire in campagna, poi ci ho riportato la sonda. Ma cosa che fate? Ti avevo visto il motore. Neanche a Natale non aveva crepato. Non solo quello, ha aspettato Aldo in campagna di Ravico, ha aspettato Aldo di proprio il fumo, nel caglio dei blocchi in chivi, ha fasciato tutto, pompa sommersa, alberi, nel caglio di una per un'altra casa platurata. Sicura, però per il fumo dove scuole ci vuole è un disco tondo, una cosa per la punta, è la punta che per il fumo, capito? Era della punta. Se ne vuole una palla sonda, e basta, non ci vuole altro. Sì, ma sulla mano va a c'è l'agnetto. Ma l'agnetto non sai che si crepa quello che è plastica. A un certo punto con l'agnetto non ci rimane più, c'è l'agnetto nella mano non ci rimane più niente. Io per la mano piace loro, devo attaccare la salina un liquese, e anche per il chiodio. C'è dato un cerchietto per la corrente statica. Una persona mi ha fatto tagliare le zampette che ci aveva e mi ha fatto mettere silicone e una passata di vulcanizzante sopra. Infatti, non è detto tu come si chiama? Si fa la punta, sai che c'è la punta secondo te? E c'è la punta tipo ragna e per attirare i funghi sicuramente perché scarica lì. Sì, non è ragno, proprio punta a punta fa. Quello per attirare i furti. Io ho una quelli qui di fronte a casa mia, c'è no. Dove c'è l'ostello c'è il parafurte. E anche la parafurte c'è l'antenna del ripetitore SIM. Tu vai al Sacro Cuore, guarda sul campanile, c'è la croce, sopra la croce c'è il parafurte, dimmi com'è. È uguale. Allora, una volta che ha beccato via... No, è stato là al corso. Stata lì fa questo temporale e ha seguito il gioco. Ma se ne guardo come sono creato sotto io. Se ne sarebbe creato la spesa in piena, ma ci stava fumo della spesa in piena presa. La croce era spaccata a metà. Però l'ha caricato almeno. No, quello del Sacro Cuore è a forma di ragno proprio, è sopra la croce ed è a forma di ragno. Tranquillo che da casa all'ultimo piano lo vedevo bene. C'è proprio il parafumo sopra la croce. Perché così, comunque i fumi dove c'è la non ci vedete a fare. Purtroppo ce li abbiamo, ce li dobbiamo tenere. È una cosa naturale. Dove scarica, scarica. Io una volta, praticamente sono andato a portare questa roba a casa di questa signora, Paolo Torres, e ho trovato i vigili del fuoco. Il fulmine è entrato dentro casa, lei non era ancora tornata a fare la spesa, perché sono arrivato prima io col furgone a portare la roba. È arrivata lì disperata, tra poco non sviene, tutta la camera della ragazza, della figlia, che era completamente bruciata. Meno male che mio figlio hanno salvato la casa, se no bruciava già entrato un tempo un fulmine dentro e ha bruciato tutto l'armadio. L'aveva appena comprata nuova questa cameretta. Sì, a parte di una cosa, ma quelli che fatto sono i cosi, il termico. Il termico di casa, dopodiché tutte le prese che fanno saltare in aria, dopo le prese, tutto quello che c'è stato sulle visore, per dire, i buchi, tutto quello che c'è stato le prese. Dopo di quello, se non c'è stato trova fuoco, allora si buca anche il pavimento, scarica fino a giù, finché non trova acqua. Lui in pratica, dove c'è l'acqua, scarica, lui mi rimane. Lo so. Casino, i fumi sono pericolosi, specialmente in campagna che c'è umidità, scarica di altri rifatti, poi sotto l'anno è tutto pizzicheggia. Tutto umido, pizzicheggia di altri rifatti. Ho visto quelle passarote, di cosa dici anni fa? Quelle passarote spiegandoci il sole, faccio il fumo in orizzontale, se è fatto. Ma mai già fai l'aria, non vediamo più spettacolari. Comunque, le dici all'estate, tu mangi il tuo fulmine, in orizzontale, anche di sotto sono verticale, comunque in orizzontale viaggiano. Molto a quello, non vedo l'arrivata. In orizzontale era l'orizzontale rimasto, così. Io credo che sia musso. No, ma perché? Se c'è l'acqua non è ancora piccio, ma dopo. Se c'è l'acqua è come la retta, L'unico posto dove puoi stare è in macchina, è come un condensatore, scarica a terra e tu sei tranquillo, è tua casa là, ma in macchina sì. E ha le gomme, scarica le gomme, ci sono le gomme che toccano a terra e che le scarica così. Le gomme sono isolanti, c'era quella specie di freccetta che si mettevano dietro, che scaricava lungo il percorso là, e poi sono andato lo stesso. Ti prende il fumo dentro per dire in macchina non riesco a nulla, né causere nulla. Ti fermi, apri la frontiera piano piano, se ne scendi e poi ti apri via il culo. Magari ne viene un altro da gamba. Davvero? Avanti con te. Capo di Rogero, guarda, mi sento venire sul campo che ci pugno, i parapugni, i capita. Poi io via, sono cose molto belle. Qualche affidabili, non succede niente, la sapete. Tu quando vedi che c'è temporale, stai in piedi e fatti lo io. Infatti molto da più sì, con le mani vecchie un fulmine, poi Allora, c'è di ponte un coso di gomma nella punta, cosa succede? Coso di gomma, cosa mette? No, no, non devi fare niente, lascia la cuscina un tempo. La di lasciare così, ci riponi il coso di gomma, non ti rende più come ti deve rendere, lasciala così, ce l'ha il piripino, c'ha il piripino, se non si è consumato con Salvatore l'ha perso, il piripino di gomma ce l'ha. E il piripino di gomma ti sta uscendo? Non ne mettere, non ne riponi, e va bene così. Anda bene vela. E anche mettere se lo vuoi mettere, se no, tanto ho toccato tre parti, vabbè che ce la metti sul tetto, va bene così. Grava, grava. Dai, prima una pulita, prima di mettere la piglia un pezzo della lanacciaio, gli spruzzi un po' di cervecino della lanacciaio e glielo passi velocemente. La lucidi, poi gli passi uno straccio per asciugarla e fatto io. E via, è così il barò. Cava. E prendi a Torello. Oppure si è spostato, Ho sentito a Pierpaolo sul canale 2 e stava dicendo attenzione al canale 21, attenzione al canale 23, mica sei sul 2 Pierpaolo. E non mi ha risposto, ho detto guarda che siamo sul 40 e niente, non rispondeva, io se non mi sentiva, Riesci a vedere che faccio un saltino io. Aspetta un attimo già. No, negativo già, non c'è nessuno. Grande. Farchito, far. Grande. Piorru. Non c'è, già, dici sì.